Friuli nel mondo. 44esima trasmissione dedicata agli emigrati. C'è un pensiero di Sant'Agostino che dice: i morti si allontanano da noi, ma non ci lasciano. Ci precedono, non si esiliano. Essi sono più vivi dei vivi. Così è di Chino Ermacora. Egli il 25 aprile ha chiuso per sempre gli occhi sulla primavera del suo, del nostro Friuli, del quale ha cantato in pagine che custodiscono intatta l'immagine spirituale e la tramandano alle generazioni che verranno, il paesaggio e il lavoro, le tradizioni e i frutti dell'ingegno, ambasciatore di tutte le bellezze e di tutta l'anima, palese e segreta della piccola patria friulana. Chino Ermacora si è allontanato da noi, ma non ci ha lasciati. Egli vive nel ricordo e nell'affetto di tutti i friulani, di tutti gli emigrati ai quali ha dedicato tanta parte della sua operosa giornata. Avete ascoltato il canto dell'emigrante e state ascoltando Stellutis Alpinis. Sono le note levatesi dietro la bara di Chino Ermacora, figlio di emigranti ed alpino del battaglione Cividale. Le note che più gli erano care, perché in esse egli vedeva il simbolo più alto dell'anima friulana. Le trasmissioni di Friuli nel mondo continuano. Ciascuna di esse si porrà lungo la scia del lavoro iniziato da Ermacora, perché siamo certi che egli, se non fosse scomparso così all'improvviso, se avesse potuto parlarci ed esprimerci i suoi desideri, ci avrebbe raccomandato proprio questo. E abbiamo pensato che il miglior modo di continuare la sua opera è quello di rendergli omaggio facendovi ascoltare i più significativi canti del Friuli. Oh,